rivincita delle bionde. Oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno, buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori su una nuova puntata della Rivincita delle Bionde con Erika Verdecchia, che sono io, e Carlotta Calarese, che è qui al mio fianco, un po' raffreddata ma sempre biondissima. Buongiorno Carlotta. Buongiorno cara Erika, buongiorno a tutti e a tutte i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Sì, ovviamente sono raffreddata, ma perché non è normale che un giorno ci sono 30 gradi e il giorno dopo 18, quindi penso sia normalissimo. Esattamente, siamo a maggio e con la primavera ci sono state ben due pause, infatti per due settimane non siamo state ai microfoni dei 103.1, perché prima c'è stato il primo maggio, quindi il ponte, abbiamo fatto una breve vacanza e poi abbiamo avuto degli impegni. Ma d'altronde comunque era la festa dei lavoratori, quindi ci può stare. Esatto, esatto. E poi abbiamo avuto altri impegni con l'università, ma oggi siamo tornati qui e vi parliamo di un progetto speciale, parliamo di teatro. Esatto, intanto ricordo prima che potete sempre seguirci tramite le nostre pagine social, quindi Facebook e Instagram. Ricordo anche che potete scriverci, anche perché siamo verso la fine del palinsesto, quindi su, forza, non abbiate timore, scriveteci e raccontateci delle vostre rivincite. Comunque sì, il protagonista di oggi è il Teatro Valle di Roma, che ha vissuto e che vive ancora una storia un po' turbolenta, un po' controversa anche, ma che però cerca di resistere. Esatto, e infatti dovete sapere che abbiamo proprio deciso di portare il teatro in puntata, prima di tutto perché non ne avevamo mai parlato. Abbiamo parlato molto di musica, arte, ma mai di teatro. E poi perché mi è risalita questa fissa potentissima per il teatro, vero Carlotta? Assolutamente, potrete vedere Erika prossimamente nei teatri di tutta Italia. Esatto, speriamo di diventare un'attrice famosa. No, a parte gli scherzi, invece Carlotta si è fissata con il blues e infatti il primo brano che vi proponiamo oggi è Our Love di Gary Clark Junior. È bellissima, quindi prestate attenzione alle parole. A tra poco. Thank you. Ed eccoci tornati sui 103.1 di Radio Città Fucico per una nuovissima puntata della Rivincita delle Bionde dopo due settimane di pausa, anche se vi abbiamo mandato una replica, quindi è sempre un piacere, spero per voi, ascoltarci anche in replica. Ma torniamo a noi, appunto abbiamo introdotto il protagonista di oggi, prima dello stacco musicale, ovvero il Teatro Valle di Roma, un teatro appunto che ha vissuto e che vive tuttora una storia un po' turbolenta, un po' confusa. Il Teatro Valle è stato occupato il 14 giugno del 2011 dopo la chiusura dell'ente Teatro Italiano da un gruppo di lavoratori dello spettacolo, quindi attori, operatori delle luci e così via, ma anche attivisti e liberi cittadini, per protesta affinché lo stabile venisse mantenuto pubblico, perché quando si è chiuso l'ente Teatro Italiano volevano vendere appunto il Teatro Valle, e quindi queste persone, questi attivisti si sono riuniti proprio affinché questo teatro storico, tra l'altro, venisse mantenuto pubblico attraverso appunto la partecipazione popolare e anche gestito con criteri di trasparenza. Nei 3 anni di autogestione gli occupanti hanno elaborato sia nuove proposte di gestione dei teatri pubblici, ma più in generale anche hanno rielaborato delle idee come ripensare dal basso nuovi modelli di politiche culturali. Poi gli occupanti hanno visto vari premi e hanno cercato di prendere legittimo possesso del teatro, creando appunto una fondazione apposta. Però questo tentativo non ha riscontrato risultati positivi, infatti l'occupazione si è conclusa pacificamente, ricordiamo, l'11 agosto del 2014, con appunto la consegna libera del teatro alle autorità comunali, con la questione appunto della futura gestione ancora aperta in realtà. Esattamente, e infatti il teatro è stato liberato dagli occupanti da parte del Comune di Roma con appunto l'intenzione di un progetto di restauro, e gli occupanti sono rimasti sbalorditi perché il teatro doveva essere venduto, poi all'improvviso il Comune di Roma ha deciso di avviare un restauro, e quindi con soltanto 3 giorni di preavviso se ne sono dovuti andare. Abbiamo trovato un breve estrapolato di un'intervista agli occupanti del Teatro Valle, che parlano appunto della questione del restauro, però perciò andiamo ad ascoltare le loro parole. Come vi spiegate questa accelerazione dell'amministrazione comunale? Non ci è stato dato un reale e concreto motivo. Ci è stato detto che c'è una pressione della Corte dei Conti, ci è stato detto che devono essere fatti degli imminenti e improcrastinabili lavori di restauro, che c'è la sovrintendenza, che si sono già trovati i soldi per fare questo lavoro. La spiegazione forte è che il Comune di Roma ha così deciso che questi 3 anni devono essere derubricati e messi da parte nel giro di 3 giorni, premesso che la sovrintendenza non ha mai messo piede qua dentro e non sanno esattamente quali sono i lavori, quindi loro stanno dicendo che apriranno un cantiere, gli danno un tempo determinato, 10 mesi, senza sapere esattamente quali sono i reali lavori. Ce ne sono tante di storie di questo tipo, no? Si chiudono le cose, i cantieri durano anni e poi nel frattempo il problema è risolto, si mette tutto a tacere. Loro non dicono sgombero, ma è evidente che la percezione è di un messa al muro senza nessuna possibilità di argomentare o di discutere, perché siamo ancora fermi a questa semplice cosa: avete 3 giorni per uscire da questo teatro perché il Comune di Roma ha deciso. È il Comune di Roma che ha deciso, sono altre le situazioni o che impongono al Comune di Roma di decidere? Noi non lo sappiamo, loro non ci rispondono, aiutateci anche voi a capire cosa c'è sotto. Same. E sulle note blues, ma direi un blues un po' reggeggiante, di Eric Gales, Changing Me, torniamo a parlare del Teatro Valle Occupato, che è il protagonista di questa nuova puntata della Rivincita delle Bionde. Abbiamo detto prima che gli occupanti del teatro cercarono di mantenere una legittimità, quindi proprio di restare nel teatro, creando una fondazione. Sì, cercando appunto di evitare che fosse venduto, venisse venduto. Esatto, e questa fondazione però purtroppo non ha avuto poi più seguito, perlomeno nel luogo fisico proprio del Teatro Valle, perché appunto il Comune di Roma ha deciso di iniziare un restauro. Infatti il passaggio di proprietà dallo Stato al Comune di Roma dello stabile del Teatro Valle era già iniziato nel 2011, quindi prima della protesta e dell'occupazione, però è stato poi concluso nel febbraio 2016, quindi ben 5 anni dopo. La sovrintendenza capitolina ha la responsabilità del restauro, che è finanziato dal MIBACT, quindi dal Ministero dei Beni Culturali, e dal Comune di Roma, che hanno stanziato 1,5 milioni di euro ciascuno, per un totale di 3 milioni di euro, per appunto un progetto di restauro generale che riguarda l'edificio, quindi questione di impermeabilizzazione delle coperture, restauro della facciata principale, la verifuga, agnifuga dei materiali di arredo e il sistema di illuminazione e adeguamenti strutturali del palcoscenico. Tutto questo in modo un po' inaspettato, perché appunto nel 2011, ben 5 anni prima, era stata presa la decisione di venderlo. Poi, a seguito dell'occupazione, invece il comune ne ha rivendicato appunto la proprietà, decidendo di iniziare un restauro, sì, e cacciando gli occupanti. È arrivato tutto all'improvviso, stranamente. Ma poi il problema è che ovviamente ancora ci vorranno almeno 3 o 4 anni affinché il restauro finisca. Esattamente. Quindi, comunque ancora passerà del tempo. Ma adesso facciamo un breve stacco musicale. Andiamo ad ascoltare un altro brano di Gary Clark Jr. Si chiama Please Come Home. A fra poco. Ed eccoci tornati sulle nostre frequenze, sempre per la rivincita delle bionde. Abbiamo parlato appunto del Teatro Valle di Roma, del progetto di restauro, dell'occupazione e così via. Adesso raccontiamo invece un po' di storia. Infatti il Teatro Valle fu sede del primo teatro stabile di Roma. Nel 1962 la giunta di centrosinistra diede vita all'istituzione teatrale della città e nel luglio di 2 anni dopo circa venne chiamato a dirigerla Vito Pandolfi, un regista, critico e studente studioso di teatro. Pandolfi cercò subito di qualificare la proposta, articolando anche un cartellone di rilievo. Basta dare un occhio alle locandine in mostra, per esempio lo struggente giardino dei ciliegi, tanto amato dalla nostra cara Erika, diretto da Luchino Visconti, e così via. In quegli anni, tra l'altro, nel volgere di pochissime stagioni, il Teatro Valle era diventato proprio una casa d'attori. Per esempio, nomino qualcuno: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Paolo Ferrari. Comunque, impossibile ovviamente citarli tutti. Esattamente, e noi adesso facciamo un altro breve stacco musicale con una canzone il cui titolo è un po' uno scioglilingua, perché si intitola The Love We Have, una cosa del genere, esatto, spero di averlo pronunciato bene. Sì, tra l'altro è un gruppo, di nome, Regina? Sam the Black Seas. Esatto, è un gruppo che ha suonato al binario 69 in Via dei Carracci qualche settimana fa, e devo dire che sono molto molto bravi, quindi ci ascoltiamo un po' il loro brano e ci risentiamo fra pochissimo. And the TV shows a lot of things, like love, love and hate, and they're all having fun. Then the TV shows some other things, like love, love and hate, and summer guitar. Is it love, the love we owe? Is it love, the one we owe? Rieccoci tornati sui 103.1, la rivincita delle bionde, Teatro Valle occupato. Sì, abbiamo parlato del restauro, che è iniziato nel 2016 e non si è purtroppo ancora concluso, però proprio ieri 13 maggio, si è conclusa invece una mostra che è stata inaugurata lo scorso 7 aprile proprio al Teatro Valle, all'interno di un progetto che si intitola Interludio Valle, che è inteso proprio letteralmente come un intermezzo tra una chiusura e l'altra, perché sappiamo che i lavori di restauro non sono ancora completati del tutto, soprattutto quelli più importanti, quindi dei camerini e del palcoscenico, quindi per permettere che ci siano degli spettacoli teatrali, però l'edificio proprio del Valle è stato rimesso a disposizione in questi mesi e si pensa fino a dicembre 2018, quindi incluso tutto l'autunno e il prossimo inverno, però non si hanno ancora delle notizie precise, certe, quindi non sappiamo. Sappiamo però appunto che c'è stata una mostra di Mimmo Palladino. Esatto, noi in realtà siamo giunte già al termine di questa puntata e niente, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fucico, sempre con Erika Verdecchi e Carlotta Calarese. Ciao!